Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Noi stiamo perdendo tantissimo capitale umano. Noi non riusciamo evidentemente a valorizzare sufficientemente non solo il capitale umano che abbiamo creato noi, ma anche ad attirare da fuori. Però distinguiamo le responsabilità del settore pubblico, che ci sono, da invece le responsabilità del settore privato. Le imprese con oltre 9 addetti fanno formazione al proprio personale solo nel 55% dei casi, una quota bassissima rispetto agli altri paesi. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Avete appena ascoltato la voce del ministro del lavoro Enrico Giovannini, che ha evidenziato il vero grande problema del nostro paese. Proprio Giovannini, nel recente incontro Meet Talents, ha aggiunto: il fenomeno della fuga dei cervelli ormai non più solo limitato alle figure più qualificate, è un tema rilevante per tutto il paese. Il problema è riuscire ad attrarre talenti. E Giovannini ha chiosato: il capitale umano di qualità va remunerato adeguatamente. Le imprese su questo tema devono fare un vero e proprio salto culturale. La frase della settimana invece è copyright di Salvatore Rossi, direttore generale di Banca Italia, che ha denunciato l'allarme fuga dei cervelli. Alla difficoltà di attrarre manodopera straniera dotata di qualifiche elevate nel nostro paese si somma la partenza dall'Italia di molti giovani con livelli alti di istruzione. Nonostante le difficoltà di misurazione del fenomeno, è viva la preoccupazione per l'apparente incapacità italiana di utilizzare bene il capitale umano che pur con difficoltà riesce a creare. Tenete bene a mente queste parole, tra pochissimo ci torniamo. Oggi lo spunto di riflessione ce lo fornisce Eurostat. L'Italia è uno dei paesi europei con la più scarsa mobilità intergenerazionale per livello di istruzione. In Italia emanciparsi rispetto ai genitori ottenendo titoli di studio elevati sono solo il 9% dei figli di persone poco istruite. Peggio di noi fanno solo Malta, Portogallo e Lussemburgo. Campioni della mobilità invece Lituania, Repubblica Ceca e Svezia. Ma ci sono anche buone notizie ed esempi da seguire. Torniamo sull'iniziativa del senatore a vita Renzo Piano, che ha recentemente riunito a Genova la squadra di giovani architetti G124, che si occuperà della trasformazione delle periferie delle nostre città. I 6 giovani, selezionati da una rosa di 600 candidati, hanno firmato contratti annuali finanziati con lo stipendio da parlamentare di Piano. Il progetto più importante siete voi, li ha incoraggiati. E incoraggiassero così anche i nostri giovani ricercatori. Sentite cosa dicono i direttori dei centri di ricerca stranieri ai nostri talenti espatriati. Mi ha stretto la mano e sorridendo mi ha detto: dovrei ringraziare il tuo paese perché mi manda tantissimi scientist molto preparati e molto giovani. E gratis, perché li ha anche formati lui. Eh sì. Sonia Pinna, 32 anni, è una ricercatrice postdoc a Zurigo in Svizzera. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. Ha preso il via primo Approdo, progetto concepito per aiutare i giovani under 35 che si trasferiscono in Inghilterra e Galles. L'iniziativa è organizzata dal Consolato Generale d'Italia, fornisce orientamento pratico con seminari tematici. Gli incontri vertono su temi specifici: legale, fiscale, medico, accademico. Per maggiori informazioni, londra.primoapprodo@esteri.it. A consigliare l'iniziativa è il boom della nuova emigrazione italiana oltremanica. Negli ultimi 6 mesi oltre 4.000 nuove iscrizioni all'anagrafe residenti estero in Inghilterra, per la quasi totalità under 45, il 57% sono almeno laureati. Secondo l'ambasciatore Pasquale Terracciano c'è un flusso considerevole negli arrivi, con una tendenza che dal 2011 registra un aumento del 40% ogni anno. E il tema del capitale umano qualificato è stato al centro della nostra intervista della settimana. Oggi a Giovani Talenti Andrea Brandolini, del Servizio Studi di Struttura Economica e Finanziaria di Banca Italia. Con Brandolini siamo partiti dalle parole, citate poc'anzi, del direttore generale di Banca Italia Rossi sul gap di capitale umano in arrivo e in partenza di cui soffre il paese. Sentiamo. Il gap di capitale umano ormai è un dato ben noto, è un dato che riguarda non solo i lavoratori, ma che viene da lontano, riguarda anche gli studenti. Concentrandoci sui lavoratori, due dati credo che possono essere sufficienti. Il primo è che abbiamo una quota di laureati tra 25 e 64 anni che è tra le più basse dell'area dell'OCSE. In Italia è il 15%, la media dell'OCSE è del 31%, ma se guardiamo i paesi più vicini a noi, Francia e Germania, questa quota è il 29-27%. quindi il doppio dell'Italia, Regno Unito addirittura del 38%, degli Stati Uniti del 42%. Quindi sono dati che ci dicono che noi abbiamo molti meno laureati di quelli degli altri paesi. E secondo voi quanto questo gap danneggia l'economia italiana e le sue prospettive di crescita? Sicuramente lo danneggia perché ci mancano quelle competenze in una società in cui l'innovazione, la capacità di risolvere problemi nuovi è cruciale. Su questo perdiamo. C'è anche un po' un paradosso, abbiamo pochi laureati, poco capitale umano qualificato, ma c'è anche, se capisco bene, un forte sottoinquadramento di chi rimane in Italia, questo è vero? Sì, c'è un sottoinquadramento, l'Istat ha stimato il sottoinquadramento e addirittura un laureato su due erano sottoinquadrati al primo impiego. Dal capitale umano esistente a quello che lascia il paese, avete statistiche o indicazioni su quanti giovani laureati emigrano ogni anno dall'Italia e più in generale su quanti under 40 lasciano il paese? No. Non ci sono statistiche affidabili su questo. Vi porto un po' delle statistiche disponibili. Sappiamo che c'è uno sbilancio, nel senso che sono maggiori gli italiani giovani che vanno all'estero rispetto a quelli che arrivano in Italia, ma non abbiamo nessun dato veramente affidabile. Credo che su questo dovremmo fare un investimento sostanziale come paese dal punto di vista statistico. Anche perché non sapendo quanti se ne vanno è difficile capire quanti laureati riusciamo a formare con costi molto elevati per la società e che poi questa formazione in realtà non resta qui o non torna. Il concept brain drain non è tanto dei laureati che vanno via, il problema è che questi nostri laureati che vanno via e che accumulano esperienze capitale umano anche all'estero poi non ritornano, così come non entrano gli stranieri che abbiano competenze dall'estero. In proposito, ci sono cifre? Se noi andiamo a vedere i dati del forze di lavoro europee, noi quello che vediamo è che abbiamo una quota di stranieri che vengono in Italia laureati intorno al 13% tra i 25-54 anni, mentre in Germania il 23%, in Spagna il 25%, 28% in Francia e 38% nel Regno Unito. Quindi da questa statistica è un buon indicatore del fatto che noi abbiamo difficoltà di attirare capitale umano qualificato. Immagino i motivi siano più o meno gli stessi per cui molti nostri laureati se ne vanno. Sì, sono gli stessi, sono un paese che, per usare una frase un po' fatta, è un po' bloccato, un paese in cui c'è una struttura produttiva che sta lentamente evolvendosi verso una struttura più competitiva, più aperta all'innovazione. Il ministro del lavoro Giovannini più volte ha puntato il dito anche contro i bassi stipendi che percepiscono i giovani laureati in Italia. C'è un gap tra Italia ed estero ed è anche per questo che forse l'Italia è poco attrattiva per i suoi stessi giovani qualificati. Questo c'è, noi vediamo, secondo statistiche dell'Istat, in Italia il salario medio mensile era nel 2010 di 1660 euro, in Francia era 1840, più o meno come in Germania, nel Regno Unito quasi 2000 euro. Una certa appiattimento delle retribuzioni fa sì che i nostri laureati siano decisamente pagati di meno che all'estero. Su questo probabilmente paghiamo uno scotto forte. Le chiedo da economista quali sono le soluzioni che lei propone per invertire la rotta, cioè come rendere l'Italia da paese di fuga dei talenti, diciamo un po' così, banalizzando, a paese di circolazione dei talenti. Io credo che siano due cose da fare. Uno deve essere investire in conoscenza, noi dobbiamo fare gli investimenti in conoscenza, scuola, capitale umano, i punti cruciali dell'intervento di politica economica. Noi dobbiamo creare persone più competenti, quindi questo sarà un bene per tutta l'economia e non solo per gli aspetti economici, anche per gli aspetti sociali e di partecipazione. Il secondo punto, dobbiamo rendere questa economia, non mi piace dire più competitiva nel senso di più concorrenziale, però dobbiamo abbattere quelle barriere che fanno sì che molti giovani non abbiano accesso alle professioni, non abbiano accesso alle varie opportunità a cui dovrebbero avere accesso, come invece hanno all'estero. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta nei cantoni svizzeri. Continuiamo a parlare di ricerca. Oggi vi spieghiamo cosa spinge oltre le Alpi i nostri giovani che scelgono di investire il proprio futuro e le proprie energie in questo settore. Nome: Sonia. Cognome: Pin. Età: 32 anni. Città di origine: Mortara. Studi: laurea specialistica in chimica. Anno in cui hai lasciato l'Italia: prima il 2007 e poi il 2011. Per andare dove? Prima in Francia e poi in Svizzera. Perché? Perché le mie prospettive in Italia erano finite. Quale lavoro svolge attualmente? Ricercatore di Inline Scientist. Dove? Paul Scherrer Institute. Tornerai? Ancora non lo so, ma se torno rimango. Jamais ne reviens. L'italo-svizzero Robert Miles, Voyage, Voyage. In Italia non si capisce bene se Sonia Pinna, 32 anni, studia ancora o lavora sul serio. È troppo vecchia, troppo specializzata, troppo titolata e non ha le capacità per fare il ricercatore. In Svizzera, invece, Frau Dr. Pin è così brava che a soli 32 anni può scrivere progetti di ricerca e farsi dare soldi e finanziamenti, seguire studenti e coordinare un gruppo. Ho sempre cercato di capire dove stesse la rottura, quale strano e grottesco meccanismo mi rende speciale all'estero e del tutto inadeguata nel mio paese. Un paese che ha investito tempo e denaro per poi cedere tutto a un paese straniero e a costo zero. Sonia, a distanza di anni, questa era la tua denuncia. Hai dato un'identità precisa a questo punto di rottura? Non credo di esserci ancora riuscita, sinceramente, a dare un'identità a questo punto di rottura, però penso di aver capito da dove comincia. Il problema è che l'Italia non è in grado di valorizzare i giovani e di motivarli, indipendentemente dalla disciplina in cui questi si formano. In particolare i giovani, diciamolo, qualificati, questo è importante. La tua storia, Sonia, storia di una bambina che a soli 10 anni decide che sarebbe diventata una scienziata. Quando scatta in te, forse anche inconsapevolmente, l'amore per la ricerca? La prima volta che sono entrata in un laboratorio mi sembravano tutti dei maghi chimici che c'erano lì dentro, quindi ho deciso che avrei voluto fare il mago anch'io e solo dopo mio papà mi ha spiegato che erano chimici, per cui è stato tutto lì. E la tua carriera successiva è tutta protesa a inseguire questo sogno? Studi per diventare perito, poi ti iscrivi alla facoltà di chimica a Pavia, ti laurei da specialista con quasi 6 mesi di anticipo sulla tabella di marcia col massimo dei voti. Allora, se dovessi dare tu un voto all'università italiana? Penso che non darei più di un 6, perché la preparazione che hanno gli studenti italiani è altissima, ma poi ci sono tutti questi problemi di gestione dell'università italiana che abbassano notevolmente il voto. E comincia qui la parte più interessante. Il tuo sogno assume le sembianze di un lavoro come ricercatrice e qui il tuo paese comincia però a tradire le promesse e le aspettative. Ti viene mostrato un percorso, lasciandoti intendere che alla fine ci sarà il premio, perché in un paese normale funzionerebbe così. Quale strada scegli per il dottorato di ricerca? Ho scelto di cominciare a studiare scienze dei materiali e scienze chimiche, per cui ho cominciato a studiare questo tipo di campo. E dopo aver vinto una borsa di dottorato ti spiegano però che non basta, che solo i migliori ce la fanno. Per questo decidi di fare un passo ulteriore, avvii un dottorato in cotutela tra Italia e Francia, tra Pavia e Grenoble. Allora, quanto è stato difficile fare il salto oltre Alpe e perché per paradosso hai scoperto più tardi che questa scelta ha dimezzato le tue possibilità di lavorare in Italia? Inizialmente è stato difficilissimo perché io non parlavo una parola di francese, non avevo mai vissuto da sola perché non potevo permettermelo e a casa non volevo gravare sulla famiglia. Poi tutto si è sistemato, ma il problema è che con 2 dottorati è difficilissimo trovare lavoro perché in Italia già uno è considerato un problema. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Sonia Pina, 32enne ricercatrice al lavoro presso il più importante istituto di ricerca federale elvetico a Zurigo. La storia di Sonia è la storia di un sogno professionale che si è realizzato, ma nel paese sbagliato, come ironizza lei. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani Talenti. L'esperienza che ha cambiato la tua vita è arrivata con l'esperienza di ricerca sul campo proprio in Francia, nel terzo acceleratore di particelle più importante al mondo. Quanto è stato forte l'impatto e cosa ti ha insegnato? L'impatto è stato fortissimo perché umanamente mi ha arricchito moltissimo, ho cominciato a entrare in contatto con tante culture diverse, tanti modi di pensare diversi. Dal punto di vista lavorativo, ovviamente la mia carriera si è affinata tutta lì, per cui devo tutto a questa esperienza. Sarebbe stato il caso di studiare direttamente in Francia col senno di poi? Studiare direttamente in Francia no, di cominciare a trovare lavoro subito dopo il dottorato sì. Volevo imparare tutto quello che potevo da quell'ambiente stimolante e variegato, così pieno di opportunità, per tornare e restituirlo alla ricerca italiana, ricordi, con passione. Non è andata così però, riconosci. A 27 anni diventi dottore di ricerca in Francia, ma anche in Italia. L'Italia mi rivolle indietro, o meglio, mi rivolle egoisticamente indietro, ricordi. All'inizio le cose andarono bene però. Quali riconoscimenti e premi hai ricevuto? La mia tesi di dottorato è stata premiata come miglior tesi di dottorato italiana in ambito cristallografico, che era la disciplina di cui mi occupavo, e subito dopo sono stata inserita in quello che è lo Young Brain, un annuario dei ricercatori under 35 più promettenti per il 2010 nel mio caso. E fin qui tutto bene, però la realtà si dimostra ben presto meno promettente. Per 2 anni arrivi alla fine di ogni semestre temendo per il rinnovo del contratto in università, così provi a guardare fuori. Allora, come si sono rivelati i tentativi di trovare impiego nelle aziende italiane? E tu, ricordiamolo, avevi un curriculum curriculum internazionale. Come ho spiegato, i dottorati erano un problema, perché per le aziende il dottorato non vale come esperienza, quindi ero troppo vecchia, non specializzata e senza alcuna esperienza. Aziende italiane o vale anche all'estero questo? Per le aziende italiane, all'estero ecco, no. Eccolo. Il vero crimine, se permetti, al di là della mancanza di opportunità, è rappresentato dalla demotivazione psicologica che il tuo paese ti instilla goccia dopo goccia. A un certo punto cominci a pensare di essere tu il problema. Quale sospetto ti venne? Io davvero cominciavo a sentirmi inadeguata, pensavo di aver sbagliato completamente, di non essere sufficientemente brava per fare ricerca in università e tantomeno in ambiente industriale, dal momento che il mio CV non veniva mai considerato da nessuno. E per fortuna, dopo il mancato rinnovo del tuo ultimo contratto, torna ancora una volta in soccorso il mondo esterno, confermandoti che il problema non sei tu, Sonia. Cosa accade non appena cominci a far girare il tuo curriculum oltre le Alpi? Di 2 settimane ho ricevuto delle risposte da Francia, Germania e Svizzera e alla fine ho scelto quest'ultima. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. Sono approdata a Zurigo nel 2010, nemmeno trentenne, in un istituto di ricerca federale di altissimo livello, il Paul Scherrer Institute. Sono partita con la tristezza di chissà che non tornerà più. Solo i migliori vengono qui, così ti accolsero il giorno del tuo arrivo, giusto per mettere le cose in chiaro. E per non lasciare nulla al caso, cosa aggiunse il direttore dell'istituto con una malcelata ironia verso l'Italia? Mi ha stretto la mano e sorridendo mi ha detto: dovrei ringraziare il tuo paese perché mi manda tantissimi scientist molto preparati e molto giovani. E gratis, perché le ha anche formati lui. Sì. Di cosa ti sei occupata negli ultimi 3 anni in Svizzera? Quale percorso di carriera hai sviluppato nel concreto? Sono entrata in un team di ingegneri su un progetto che già era attivo per sostanzialmente ottenere metano dai rifiuti solidi urbani. Dopo 1 anno mi hanno affidato un progetto nuovo finanziato dalla Comunità Europea. Da lì poi ho cominciato ad avere studenti, a collaborare con ricercatori esterni, perché il nostro laboratorio è pressoché unico al mondo, quindi vengono da tutto il mondo a fare misure. Sonia, toglieci però una curiosità: qual è il segreto dell'ecosistema svizzero? Perché di là valorizzano i talenti e qui no? La realtà svizzera è una realtà praticamente unica, perché è un paese piccolo ma molto ricco. Ha capito che deve investire tantissime infrastrutture, risorse finanziarie nella formazione e nella ricerca. Le università svizzere, i politecnici, centri federali pubblici e privati come il mio attirano ricercatori da tutto il mondo, perché le condizioni di lavoro, gli stipendi, i finanziamenti sono altissimi. Tornerò, può darsi. Intanto forse sto tornando a fare pace col mio paese. Hai concluso Sibillina nell'ultima email a giovanitalenti@radio24.it. Negli ultimi anni, a ogni tuo tentativo di rientro nella penisola, la risposta è stata sempre la stessa: troppo vecchia, troppo titolare, troppo costosa. Ora però c'è qualche speranza? Sembra di sì. Sembra che il mio CV sia stato valutato positivamente da un'azienda italiana piuttosto famosa, di cui non voglio fare il nome perché i colloqui stanno ancora andando avanti, però almeno ho ricevuto una risposta e questo mi fa ben sperare. E noi ti facciamo veramente tantissimi auguri, speriamo che tu ce la faccia. Come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire? Il problema dell'Italia è che noi abbiamo i cervelli che scappano e non sarebbe un problema se avessimo un ritorno da cervelli esteri, ma noi continuiamo a esportare i nostri cervelli senza ricoprire le posizioni che loro lasciano, per cui ci stiamo impoverendo. Sarebbe bene che ci fosse una politica radicale per cambiare il sistema di reclutamento universitario, evitando tutti questi baronati, questi nepotismi, alzare gli stipendi e le risorse per la ricerca, perché non siamo competitivi per niente e finora purtroppo nessun governo, né di destra né di sinistra, si è occupato di questo. E ci raggiunge ora in linea Antonio Bonatesta, neo segretario nazionale di ADI, Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani. Buon pomeriggio. Antonio, da dottorando, che effetto ti ha fatto ascoltare la storia di Sonia, una collega che pur in un settore diverso ha fatto il tuo stesso percorso? L'impressione non può che essere, diciamo, quella di una storia già ascoltata. Quella di Sonia è la storia di migliaia di altri colleghi che fanno le spese dei limiti del nostro sistema universitario e dei limiti del dottorato italiano. Limiti che sono rinvenibili in primo luogo nel sottofinanziamento delle risorse destinate alla ricerca, nel tentativo da parte delle politiche ministeriali di sostituire risorse pubbliche con risorse provenienti dal mercato, quando la storia di Sonia ci ha fatto scoprire purtroppo l'amara verità, cioè che, diciamo, il sistema produttivo italiano è caratterizzato da bassi tassi di innovazione tecnologica e da una scarsa differenziazione produttiva. Ci racconti in breve cos'è ADI, Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani? L'ADI è nata nel 1998 con l'obiettivo di dare rappresentanza e tutela a dottorandi e giovani ricercatori attraverso un impegno associativo volontario, non retribuito e indipendente dai partiti. Oggi contiamo 890 iscritti e 14 sedi su scala nazionale. Abbiamo portato avanti 2 battaglie storiche storiche come l'innalzamento della borsa a 1.030 euro e la rappresentanza dei dottorandi in molti senati accademici. In Italia i finanziamenti a ricerca non erano mai sufficienti per tutti, sempre più tagliati e cannibalizzati da una politica folle che continuava a dire di voler sostenere la ricerca ma che al netto non faceva altro che renderla più difficile e inaccessibile a chi, come me, si vedeva davanti una coda di quarantenni ricercatori precari. La condizione era non lasciare mai il tuo posto in fila o perdi il turno. Così Sonia ricorda a distanza di anni la sua esperienza italiana. Antonio, è ancora drammaticamente così? Noi viviamo una drammatica situazione di sottofinanziamento del sistema accademico. L'OCSE ci ha detto che siamo agli ultimi posti in investimenti in ricerca, tagliamo continuamente risorse ordinarie al sistema accademico, come denunciato dal CUN, e questa riduzione di risorse risponde a un disegno ben preciso perseguito dalle politiche ministeriali dal 2008 e oggi, ovvero la presunzione di tagliare le risorse per razionalizzarne l'uso che se ne fa all'interno delle università. In realtà questo è, a nostro modo di vedere, un assunto profondamente sbagliato. Dalle riflessioni ai dati, questo taglio progressivo dei finanziamenti alla ricerca, voi lo avete misurato un anno fa, qual è stato il risultato? Dal 2009 a oggi si è registrata una riduzione del numero di borse di circa il 24%, sono stati sottratti circa 200 milioni di euro al sistema del dottorato, e questo è solamente il dato che emerge da un campione di 21 università. Tasso di precariato in università e paragone Italia-Europa che appare impietoso, in brevissimo. È emerso che nel 2012 metà delle persone impegnate nella ricerca italiana lo fanno con un contratto a tempo determinato. Abbiamo calcolato che circa il 78% degli assegnisti viene espulso dal sistema accademico dopo il primo o al massimo il secondo anno di assegno di ricerca, e solo il 15% dei ricercatori a tempo determinato viene confermato al passaggio successivo. Quindi complessivamente il 93% degli assegnisti non proseguirà nella ricerca. Il confronto con l'Europa è molto triste da questo punto di vista, soprattutto misurato nel numero dei dottorandi. Noi abbiamo circa 38.000 dottorandi in Italia, siamo dietro a paesi come la Grecia, l'Irlanda e il Portogallo. Grazie ad Antonio Bonatesta, e domanda di rito a Sonia Pin: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Di essere coraggioso e di farlo, di essere sfrontato e di inseguire il sogno. Se poi decide di tornare, meglio, avrà un'esperienza che lo ha arricchito di più. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un economista a capo dell'unità ricerca economica della Banca di Lituania a Vilnius, a scadenza per il CV 9 febbraio, info su lb.lt. Un segretario generale per i giovani federalisti europei a Bruxelles, a scadenza per il CV domani, curricula president@jeff.eu. E infine la Novo Nordisk cerca giovani con master in scienze naturali, farmacia, biotecnologie e statistica per un graduate program di 2 anni con 3 assegnazioni di lavoro tra Danimarca, Europa, India o Stati Uniti. Scadenza per il CV 9 febbraio, info su novonordisk.com. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova immigrazione professionale. Oggi andiamo indietro nel tempo. 16 anni fa, agli albori del web, nasceva online un sito che raccontava il mondo degli italiani all'estero e spiegava come espatriare. Un sito che è stato precursore della nuova ondata di immigrazione professionale. Massimo Dallaglio, direttore di Mollo Tutto. Mollo Tutto, ho l'orgoglio di dire che rappresenta il primo sito italiano che ha iniziato a parlare di italiani che si sono trasferiti all'estero. Infatti risale al 1998. Io lo iniziai a creare, a pensare, proprio per mettere insieme delle informazioni più che proprio un sito strutturato. All'epoca, insomma, non era così sviluppato internet e le sue varie diramazioni, eccetera. Quindi adesso si è conforma come proprio un magazine online con 20 articolisti che pubblicano interviste di italiani che vivono all'estero e anche articoli proprio che possono riguardare le persone che desiderano trasferirsi, proprio dai trasporti alle assicurazioni, ai vari tipi di visto, eccetera. L'hai detto tu stesso, abbiamo cominciato nel 98, però ti chiedo, già allora c'era l'impressione che stava cominciando un esodo di professionisti, soprattutto qualificati? Era un po' agli inizi, diciamo così, e soprattutto anche internet, essendo meno diffuso, si riuscivano a reperire meno notizie, meno statistiche e meno interviste soprattutto. Come hai visto cambiare questa immigrazione in 15 anni? L'ho vista veramente in maniera diversa, sotto diversi profili, cioè si sono profilati 3 macro profili di persone che espatriano. I primi sono quelli, diciamo, più famosi, più conosciuti, la cosiddetta fuga di cervelli, cioè persone con lauree scientifiche soprattutto che hanno iniziato a trovare lavoro all'estero. Poi sono emersi quelli che sono i piccoli imprenditori, quelli che hanno visto che in certi paesi